Se io ho questo nuovo media, la possibilità cioè di veicolare un numero enorme di informazioni in un microsecondo, mettiamo caso a un aborigeno dalla parte opposta del pianeta, ma il problema è, aborigeno, ma io e te, che cazzo se dovevo dire? Sono 22:52 minuti primi, le frequenze quelle di Radio Onda Rossa, 87.9 della banda romana e laziale. Chacchin negli studi mette a posto le cose come debbono stare, cioè fa la penombra giusta. Allora ve lo diciamo subito, abbiamo fatto una promessa vana, già vi sarete accorti dal momento che dovevamo cominciare così, condividendo lo spazio con le prove tecniche di trasmissione di Elettrodo. Allora, stasera purtroppo Lily non è riuscita a venire, cause di forza maggiore. Magari riusciremo fra poco a fare pure una piccola telefonata in cui ci spiegherà e soprattutto credo si impegnerà a venire al più presto alla radio, perché appunto ci dispiace molto di non poter fare il live come annunciato. Ma soprattutto, quanto ci è dato di capire, spiace moltissimo soprattutto a lei, che ci teneva molto a partecipare questa sera. Vabbè, quindi abbiamo raffazzonato all'ultimo momento un po' di dischi che avevamo da parte e si va in onda comunque e sempre. Dicevamo 87.9 la modulazione di frequenza, quella che state ascoltando in Radio Onda Rossa. www.ondarossa.info qualora vogliate ascoltare la radio attraverso la rete, lo streaming. www.ondarossa.info e anche il sito appunto di Radio Onda Rossa, dove troverete la pubblicazione delle trasmissioni, delle corrispondenze salienti che la radio produce, o meglio autoproduce. Troverete link interessanti insomma quello che ci sta normalmente nei siti. Di presentazione di qualcosa che come Radio Onda Rossa campa da 37 anni senza l'ausilio di chi che sia, ma soltanto con le proprie, anzi con le nostre forze, con le nostre e con le vostre forze. Mentre peraltro cominciano ad arrivare degli insulti, Oibò. Perché sì, avevamo sparso la voce in giro e non ci tengono a sentire la nostra voce anche stasera, insomma. Avrebbero preferito la voce e le chitarre di Lily, però. E invece no, e invece no. Vediamo le sole, certo. Ce ne prendiamo tutte le responsabilità, tra l'altro, come facciamo sempre. Da grandi sole quali siamo. dicevamo, radio che vive con le proprie, con le nostre forze, cioè nostre, di chi ci sostiene, del movimento tutto, dei compagni e delle compagne. E perciò, appunto, andando sul sito, sulla voce sostieni, troverete tutte le modalità per sostenere Radio Onda Rossa. Però vi ricordiamo comunque il 61 80 40 01, conto corrente postale da intestare a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001 00185 Roma San Lollo. E non stacchiamo i foglietti dal muro per dire ciò. Ogni riferimento è puramente casuale. Casuale. Ondarossa@ondarossa.info per le vostre comunicazioni alla redazione. Invece 25oclock@ondarossa.info per parlare, per interloquire con noi via mail. Oppure fantasma@ondarossa.info per le stesse evenienze. Per le stesse evenienze. E se volete riascoltare le nostre bravo, trasmissioni, insomma quello che abbiamo un po' fatto negli ultimi tempi, potete andare a cliccare su Palinsesto, poi sulla giornata del mercoledì, andando a cliccare su 25 o'clock, vi troverete una collezione degli audio e di alcuni testi esplicativi, brevi testi esplicativi, in cui vi spieghiamo cosa c'è pubblicato là, e tanto disagio proprio a go-go, e quindi esattamente. 0649175 il numero 0649175 e mandiamo la traccia successiva. Guarda che bravi. Eccoci perciò con Lili, che appunto avevamo organizzato tutto. Ci sei, Lili? Ci sono, mannaggia, purtroppo sono qui e non lì da voi. Non lontano da qui, peraltro. Mi rattrista. Tra l'altro prima vi stavo ascoltando ovviamente, e sentivo che vi stavate prendendo tutta la responsabilità, cosa che invece non avete fatto niente, non siete delle parole, ma è tutta colpa mia, dei malanni stagionali che mi obbligano a rimanere qui tipo pulcificata sotto strati di maglioni e coperte. Beh, questo lo pensi te, perché noi in realtà poi quando ci teniamo troppo alle cose, poi può essere che ci prende l'influsso negativo e cerchiamo, esatto, di vanificare tutto. Ma no! No, non lo so se è successa questa cosa anche a me, perché in realtà ci tenevo tantissimo anch'io a questo live, visto che tra l'altro sarebbe anche stato dedicato ad Alberto, e quindi è una causa alla quale tengo profondamente, certo, tantissimo. Però lo facciamo a novembre, dai. Certo, ragazzi. Sì, appena, okay. Io so che adesso avrai un po' di giretti da fare, di appuntamenti, di cose da risolvere, ma appena ti liberi, insomma, organizziamo subito una data e la facciamo questo live, visto che ormai ci abbiamo fatto la bocca, come dire. No, non si scappa, Lili. No, assolutamente. È andata così stavolta, ma la prossima saranno proprio tipo fuochi d'artificio. No, vabbè, solo così per introdurla un attimo, visto che ce l'abbiamo qua in linea. Lei fa assolutamente, nel disco forse c'è qualche collaborazione, qualcuno che ti aiuta, ma fai assolutamente tutto da sola. La cosa bella è questa, e produce dall'altro delle cose che sembra un'orchestra in realtà, e quindi ci tenevamo pure proprio per la curiosità, per vederla da vicino come fa a creare questo suono così assolutamente magico da una parte e dall'altra parte appunto in perfetta solitudine. Sì, con gli ausili tecnici di una loop station in realtà, però sì, è tutto molto orchestrato. In realtà anche su disco faccio tutto da sola. Chi mi aiuta è un producer che si chiama Valerio Fisic, che è all'Ombrelobo Studio e regista, ha registrato tutti i miei dischi praticamente, e in quest'ultimo disco in particolare Kawax per la prima volta appaiono anche delle collaborazioni, che sono gli Inferno Sofai in Grand Roll, che hanno prestato le voci in un brano, poi c'è Valerio Diamanti che ha suonato la batteria in un altro, e Nicola Manzanna, che sarebbe Bologna Violenta, che ha suonato addirittura degli archi sull'ultimo brano. Però per il resto è tutte le chitarre, tutte le voci sono opera mia, ovviamente. Va benissimo, allora questo qui non fa che aggiungere curiosità, quindi niente, dai, al più presto ci teniamo in contatto e facciamo questo live appena ti sarai rimessa. Assolutamente. Avrai risolto, sì, i tuoi impegni. Va bene? Va bene. Ti aspettiamo, Lili. Ciao. Dai, ciao, grazie, riguardati. Ciao ragazzi. Ciao. Cata? Riguardati. Sì, diciamo. Mi riguarderò. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao. E niente, quindi è andata così, dai, influenza incombente, quindi ce l'ha messa tutta, tra l'altro abbiamo cercato proprio in extremis, viene, ma non viene, guarda, viene, non viene, guarda, andiamo a prendere, ci inventiamo qualcosa. Magari non è del tutto una... poi ne parleremo, perché è una giornata particolare questa. È una giornata, come tutte le nostre giornate, bisogna dire, sono tutte particolari. Vabbè, ci tenevano compagnia le Motorama con 77. E ci spostiamo quindi dalla capitale delle Motorama e di Lili. Oh, Lili. Alla Londra delle Savages. I am here. Dai, è con 25 o'clock. Radio Onda Rossa. restiamo invece, torniamo nella splendida produzione che c'è da qualche tempo a questa parte anche qui in città e soprattutto nella periferia o nella provincia, nelle province laziali, e tanti e tanti abbiamo ospitato sia in forma così discografica sia in termini proprio di presenze fisiche qua a Radio Onda Rossa. In un'altra di quelle band che è mitica già nel nome, BSBE, che sta per Bud Spencer Blues Explosion. E questa è la loro Camion. Un blues mescalinico. Adriano Viterbini, Cesare Petulicchio, per quanto riguarda la parte ritmica, mentre Adriano appunto è la chitarra, la voce e altri disturbi vari. Five O'Clock Radio Onda Rossa. Questa ve la mando da capo, ovviamente, in attesa di reperire il nuovo lavoro degli Shellac uscito in quel di settembre di quest'anno. Andiamo a ripassare il loro Excellent Italian Greyhound, uscita del 2007, ma per quanto riguarda la band di Bob Weston, Steve Albini, Todd Trainer, non si può mai parlare di suoni che invecchiano, dal momento che già loro stanno avanti di qualche lustro nella produzione, quindi questa è la loro Elephant Shellac. Inutile dire che ci siamo formati le orecchie e il gusto intorno ai loro suoni. Dai, hairs. This will another one rolls its side you. And says, very bumpy. Fact of the matter is, they all shout, facts don't matter. Anti-intellectual, the new virtue. Repeat a lie, names as if that makes it true. Repeat a lie, that makes it true. Repeat the lie. Avete visto in giro per Roma, a San Lorenzo ce ne stanno tantissimi, ma comunque anche in giro per altri posti in città, i manifesti in solidarietà, in appoggio, come dire. In assoluta sintonia con la resistenza di Kobane, che dice il manifesto, appunto, che recita proprio vita, viva la resistenza di Kobani, long live Kobane o Kobani resistance. Assemblea che si è tenuta ieri in quel della Sapienza richiamava. E il corteo cittadino, soprattutto, giornata mondiale di azione per Kobane e il Kurdistan. Primo novembre alle ore 15.30, partenza da Piazza dell'Esquilino. Ed è una firma piuttosto importante, perché la firma, appunto, è Roma per la coalizione popolare internazionale contro l'ISIS. E quindi una situazione che si è creata negli ultimi 2-3 anni, dall'esplosione delle prime rivolte, diciamo, delle cosiddette primavere arabe in vari paesi, nonché in Siria, dove in quel gran calderone, in quel gran marasma di situazioni molto, alle volte molto difficili da leggere per noi qua giù in Occidente, appunto, secondo parametri che sono molte volte poco adatti a leggere, appunto, e descrivere le situazioni che sono semplicemente al di là del Mediterraneo. Invece una cosa che ci così ci è estremamente vicina, estremamente semplice da interpretare, da capire, per anche la modernità e la puntualità con cui si è manifestata, è proprio la resistenza curda nell'enclave della Rojava siriana, in cui appunto da un paio d'anni i curdi e le curde sono stati in grado di mettere su una storia importantissima fatta di cose che assomigliano poi molto a quelle che a noi piacerebbe fare in realtà, ma che lì hanno avuto un laboratorio importante di realizzazione, di messa in pratica, come l'autogestione, la resistenza. Il femminismo che trova appunto in nel Kurdistan, iracheno e siriano, delle messe in pratica, appunto, delle sperimentazioni, dei tentativi molto importanti per superare anche quelle che sono le nostre repressioni in merito appunto alla divisione fra i sessi, alla sessualità, all'oppressione di genere. E quindi con l'occhio che ci brilla guardiamo a quella che è l'esperienza di Kobane e della Rojava tutta. E quindi appunto il 1° novembre, sabato prossimo, in piazza, a partenza da piazza dell'Esquilino alle ore 15:30. E non si parlava bene prima del live dei Swan, quindi mi è sembrato di capire. Questo è il disco, invece non se ne può che parlare bene. figlie, sorelle e capre. Ogni madre, figlie, sorelle e capre. Ogni paese ha la sua piaga. Proprio come i negri da noi in America. Come le bestie, vuol dire, perché sono bestie, nient'altro. Ed è proprio per questo che sono tutti idioti. Ehi, tu, hai mai conosciuto tuo padre? Quanti figli hai? Non lo sai, eh? E tua madre, quanti figli ha fatto tua madre? E con chi? Ecco, vedete per chi si dovevano fare le riforme agrarie? Per degli straccioni abbrutiti. Quell'imbecille di Madero voleva dare il potere e tutte le nostre terre a degli idioti come questo. Siamo piccole pedine nelle mani del Signore. Per questo la Divina Provvidenza ha richiamato a sé quello sconsiderato di Madero. Ma caro reverendo, chiamiamo la Provvidenza col suo vero nome, Generale Huerta. Lui ha rimesso i peones al loro posto naturale, che in fondo poi è il posto delle bestie. Perché bestie sono. Sono bestie. Ah, oh, me l'immagino, reverendo. Me lo immagino vivendo così in promiscuità. Dare il potere alla nostra terra. O degli idioti così. Come ogni paese ha la sua anima. Proprio come i negri. Come i negri a noi in America. Per questi occhi la Provvidenza ha richiamato a sé quello sconsiderato di Madonna. Io direi che sono dei poveri brutti. Poveri brutti. Idioti. Come anima. Poveri brutti. Idioti. Anima. Poveri brutti. Idioti. Poveri brutti. Brutti. Che indossate. Io vi ho dato ogni cosa. Ma come Ferguson fa un regalo, Ferguson se lo può riprendere. Questo riuscite a capirlo? Chi di voi non obbedisce verrà ucciso. Vi do esattamente un minuto per tornare al lavoro. Aspettando. Non so quale inferno ti abbia vomitato, ma sei arrivato al momento giusto. Klein! Avanti, spara! Se uno solo di voi spara un colpo, sarete tutti morti. Sono le bestie che fanno soltanto ridere. E voi siete delle scimmie che vanno in giro blaterando di libertà. E questo mi fa ridere. Per voi libertà vuol dire solo un pezzetto di terra su cui poter sedere e far niente. Siete dei primitivi. Voi non create, non costruite. Selvaggi siete, come selvaggi continuate a vivere. Che avete saputo fare? Da soli, fino ad oggi. Avete saputo solo distruggere quello che i vari George Barrow Ferguson del mondo hanno creato lavorando per secoli. Voi siete la zavorra della terra. Siete degli schiavi creati per servire. Siete nati servi e tali morirete urlando la parola libertà, di cui non sapete il significato. Preparati a morire, Ferguson. Per te è finita. Ti abbiamo giudicato e condannato. Non voglio essere giudicato da voi. Un gentiluomo può essere giudicato solo dai suoi pari. O da se stesso. Non so come muore un gentiluomo. Le Crescant, non disonorarmi, morta. Lascia che mi uccida da me. Lascia che morire con te. Non perché si ammazzano degli uomini, ma perché si ammazza la pietà. Sei divertito a far fuori servito, vero? Ci hai preso gusto, come un bambino con una mosca. Ma ricordati, Ferguson non era nemico tuo, ma nemico nostro. Non avevo rubato la tua terra, ma la nostra terra. Ma noi purtroppo abbiamo bisogno di uomini come te. Tu sei il più bravo di tutti noi a uccidere. Perciò io e i miei uomini ti chiederemo di prendere il comando di questa banda. E io pregherò il Signore che tu voglia accettare, che tu ti unisca ad altre bande, che tu combatta e uccida. E che questo nostro povero popolo abbia finalmente un po' di giustizia e di libertà. La testa requiescant Fire Orchestra Enter Part 3. Thank you. Momento in cui ci uscì qua sotto fondamentalmente sono chiuso da tutti i lati, non si fanno più muovere il corteo. Sono rimasti qualcioretta lì a Piazza Indipendenza in presidio, dopodiché hanno deciso di muoversi in corteo e io spiego a disposizione dei blindati per far capire più o meno a tutti com'è andata. C'erano tre blindati di quelli grossi che chiudevano l'accesso a via San Martino della Battaglia sotto l'ambasciata tedesca, altri erano disposti dall'altra parte della piazza. Quello che aveva detto la questione a questi lavoratori era che dovevano risalire sui pullman e tornare a Terni. Loro invece hanno provato a muoversi in corteo da, diciamo, dall'incrocio tra Piazza di Mendezza e San Martino della Battaglia verso Piazza dei 500, e lì c'è stata questa carica da parte della polizia, e c'è qualche ferito, mi sbagliano di almeno tre persone perché è stata una carica abbastanza dura, e tra l'altro mi dicevano che anche già in internet stanno girando le foto dei feriti, per cui si può anche comprendere un po' la gravità della situazione. Dopodiché, dopo questa carica, sono rimasti lì comunque con forza e determinazione a ribadire che volevano muoversi in corteo, dopodiché la questura ha deciso di farli finalmente muovere e sono arrivati poco fa, diciamo tra 20 minuti e una mezz'oretta fa, purtroppo al Ministero dello Sviluppo Economico, dove ancora in corso all'interno del Ministero questo incontro che ci avevano organizzato da questa mattina. Colgo l'occasione per dire che qui hanno incontrato dei lavoratori di Marcianise che erano sempre lì, che probabilmente anche loro avevano un incontro qui al Ministero. Alle 16, come già si è detto, ci sarà invece un presidio di solidarietà con i lavoratori della CRV di Livorno, che hanno appunto sempre alle 16 un incontro qui al Ministero, ed è stato organizzato un presidio di solidarietà da parte di compagni e compagne di Roma, per cui i lavoratori purtroppo saranno qualche centinaio tra le 200-300 persone, dopo ne arriveranno altri, per cui vi invito anche chi fanno i lavoratori e questo è di raggiungere questo presidio di solidarietà disposto al Ministero dello Sviluppo Economico e diamo vite. Va bene, noi ti ringraziamo, poi ci collegheremo anche con il presidio di via Molise più tardi, abbiamo appunto una corrispondenza che ci viene proprio non da Piazza Indipendenza ma da chi era lì a Piazza Indipendenza. Adesso siamo esattamente a Piazza Barberini. Pronto? Sì, ciao, pronto, buon pomeriggio a tutti e tutte. Ciao, siamo praticamente a Piazza Indipendenza e ho qui un lavoratore dell'acciaieria di Terni che vorrebbe un po' raccontare la giornata di oggi, la lunga mattinata, le cariche della Piazza Indipendenza e poi il corteo che è arrivato qui sotto dal Ministero dello Sviluppo Economico. Ricordo che attualmente i delegati sindacali sono su per un tavolo tecnico. Vi passo subito il lavoratore così vi racconta un po' la giornata. Ok, grazie. Buongiorno. Pronto, buongiorno. Allora raccontaci di cosa è successo. Sì, sento malissimo, posso un attimo. Niente, noi siamo venuti qui a Roma oggi sulle buone intenzioni, andare a trovare i tedeschi e se lo comporto per aiutarci anche loro nella causa. Hanno ricevuto i nostri delegati a un certo punto e parla molto bene, hanno detto che avrebbero scritto una carta. Verbalmente hanno detto che sarebbero impegnati in pratica per aiutarci come tramite tra la Thyssen e anche il nostro governo. Così poi non è stato, perché quando è arrivato il comunicato un paio d'ore dopo ci hanno scritto praticamente che loro, quasi a parole testuali, hanno preso atto che abbiamo manifestato, che la nostra situazione è stop e basta, quindi senza scrivere nulla d'altro, le hanno preso impegni per mettere anche loro una parola, una voce, per mettere insieme le parti, al che la gente sta imperforata, volevamo venire qua al Ministero dello Sviluppo Economico, quello della polizia a bloccare la piazza.

sogno che succeda la mattina qualcosa. Qualcosa di grosso, magari anche la rivoluzione. Dopo l'infezione 1989 da Modena, abbiamo ascoltato gli Erode, un suono che ricorda il titolo di questo disco, Tempo che non ritorna. Invece il suono è maledettamente attuale. Portami via di qua prima che venga sera. fantasma di tanto in tanto va a appunto a essere fantasma, a impossessarsi del corpo altrui, ad infesto, vado ad infestare o viceversa, insomma. In questa infestazione appunto la radio è prigna in questo spazio. Gli Erode hanno avuto sempre così un punto privilegiato d'ascolto in varie trasmissioni, appunto quelle di Roberto il Patata, che amava gli Erode. E si parlava di un suono che si rifaceva un po' al punk dei primi anni 80. E a microfoni spenti si citavano gli Exploited. E c'è un altro gruppetto uscito con un lavoro nel 2012. Insomma, se ascoltate Radio Onda Rossa, sono una presenza dell'automatico. E quindi dal disco del 2012, Tutti Appesi, loro sono Raise Your Pitch. We'll be right back. E siamo entrati nel pieno della 25esima ora. Quest'ora al confine del tempo. Si apre una sorta di bolla spazio-temporale. Poi non sappiamo perché, ma diventiamo canali di energie. E con questi suoni vogliamo salutare il Patata. Come voi, siamo come voi, come voi. Sì, sì, c'è sta insomma tutta la cosa. Il grande spirito chiama e appunto si mette in contatto con chi? Con un'altra entità che è quella del fantasma. Però è un po' così, insomma, la radio è fatta anche di questo, è fatta di tante essenze e di anime comunque che finiscono per non voler andarsene mai da questi studi, e in realtà è un po' questa la storia nostra. Siamo una banda di criminali. Oh, il numero è sempre lo stesso, 0649 1750. Mica stai a vedere tutti la partita, no? Finita ormai. Sarà finita. Viviamo nelle strade, nella rabbia delle borgate. Noi non siamo gente per bene che trascina per strada le sue catene. Come voi. E questo pezzo non l'abbiamo scelto noi. Siamo come voi, come voi. Siamo come voi, come voi. Loro sono i Senza Sicura, più di mille. Mezzanotte 21. E tu guardi la tua vita consumarsi sempre più, ma i compagni dove sono? 87.9. Le parole sono Radio Onda Rossa. Non passano più, c'è chi muove tra il silenzio e il tuo compagno. E visto che trillano, ogni anno più di 1000 lavoratori vengono uccisi per mano dei padroni. Dove sono i compagni? Da queste parti significa come again. Da capo. Odio chi non ha più dignità e si traveste per campare e non si batte e si lascia andare. Odio chi non salta che parte sta e dice sarà sempre uguale. Io sto da parte.

Questo è un pezzo che dedichiamo ad Elettrodo. Loro sono i Neptune Towers. Progetto parallelo di Ferritz, dei Darktron. Questo è un lavoro del 1994. Ed è un lungo trip nello spazio. Caravans to Empire Algol. We'll be right back. allontaniamo dalla lunga colonna di astronavi. Vanno a formare la carovana diretta all'impero di Algol. Andiamo a ricordare che il prossimo 7 novembre ci sarà una cena di finanziamento per Radio Onda Rossa. Sì, perché come siamo sovente ricordarvi, Radio Onda Rossa non campa d'aria, si dice, e quindi in questo momento in cui, come dire, manca il solido, ci dobbiamo un po' da fare, quindi girare un po' per la città per andare a reperire comunque iniziative appunto a sostegno di Radio Onda Rossa, reperire il nostro sostentamento per pagare quello che una radio costa. Quindi dicevamo Alexis 7 novembre e poi qui c'ho venerdì 17 ottobre Loa Acrobax pizza proiezioni video, questa qui era quella vecchia, 17 ottobre sì. Mercoledì 19 novembre invece 100 celle aperte a sostegno di Radio Onda Rossa, pure altra iniziativa che stiamo così, è in cantiere e stiamo formalizzando. E, anticipiamo anche che sono, cioè per il 14 di novembre. Alexis Nia, Tribù Acustica, sempre per Radio Onda Rossa. Quindi poi avrete i dettagli e sicuramente in queste ore il sito verrà arricchito anche di questi appuntamenti. Che cosa altro dire? Che riprendiamo il viaggio siderale. Riprendiamo il viaggio siderale e tra poco i saluti. Buonasera, domani 25 dicembre è il Natale del Signore. Un felice Natale a tutti voi. Il sole sorge alle 7.36 e tramonta alle 16.44. La luna si leva alle 11.48 e cala a 1:07. Numerose sono le credenze legate alla notte di Natale. Nella tradizione celtica, al primo rintocco di mezzanotte, i grandi monumenti di granito e menhire dolmen si animavano e raggiungevano la riva più vicina, travolgendo e sradicando tutto ciò che incontravano. Venivano così alla luce favolosi tesori, ma per rubarli bisognava fare in fretta, perché al 12° rintocco i grandi blocchi di granito tornavano al loro posto. Dicembre 1840. La città di Londra si prepara a festeggiare il Natale con gli acquisti nel mercato di Covent Garden, che darà quanto occorre per i grandi pranzi di palazzo nelle famiglie della borghesia ora in piena ascesa e della classe operaia ugualmente in espansione. A corte la giovane regina Vittoria può contare su un giovane eccellente collaboratore, Charles Elmé Francatelli, da poco nominato cuoco e maître d'hôtel, italiano d'origine, francese di formazione, abile nel cucinare e nel montare i piatti. Si riafferma così nell'Ottocento la passione inglese per i banchetti, cui Hogarth ha dedicato un secolo prima sia le immagini caricaturali degli ingordi di carne, sia la sorridente freschezza della venditrice di gamberetti. Ora la società si è fatta meno avida e più rispettosa delle buone maniere. C'è il piacere nei palazzi e nelle case di arredare non solo le sale di rappresentanza, ma quelle da pranzo, solenni e familiari. In più c'è l'insegnamento venuto dall'India, perla delle colonie, dove i Maharaja hanno fatto conoscere lo sfarzo orientale anche a tavola. E dall'India prende spunto Francatelli per inserire tra le 1462 ricette del suo libro di cucina anche quelle straniere accettate dagli ufficiali dei reggimenti imperiali, compreso il pollo tandoori arrostito nello speciale forno. Anche se per Natale le guarnigioni di frontiera rispettano il rito del padding inglese. La ricchezza si manifesta durante il regno di Vittoria e di Alberto, principe consorte, con l'abbondanza di tutto quanto viene di lontano. L'attività nelle botteghe e nei forni, le proposte nei ristoranti sempre più numerosi, dove dimenticando l'austerità domestica si fa volentieri baldoria, così come avviene nelle botteghe del gin, da sempre bevanda nazionale. Testimone e cantore di questo benessere borghese è Carlo Dickens, che con l'aiuto degli illustratori delle sue opere ci dà un ampio ritratto di questa industria che riceviamo. Corre come una lucerna. si arrampica come una lucertola? Si comporta come una lucertola. Chi è? È la lucertola. Scoprila con Re-Educational Channel. Dal mare alla rete del pescatore, dalla rete del pescatore al mercato, dal mercato sulla vostra tavola e infine nel vostro stomaco. Che altro deve fare la soiola? Spazzarvi pure per terra? Tutte le soiole su Re-Educational Channel. Lo sapevate? Dopo l'accoppiamento, l'amante religiosa divora il suo sposo, eppure quello ci va lo stesso. È proprio vero che tira più un pelo di... che un carro di buoi... Scusatemi, su Re-Educational Channel. Va sotto? Che? Con le pinne? Che? È subacquei! Su Re-Educational Channel! Subacqueria! La storia della subacqueria! Prosegue la nostra inchiesta su Re-Educational Channel! Lo sapevate? Malgrado le moderne tecnologie, il record in apnea è stato stabilito nell'antichità da Sifone di Mileto, che si fece cronometrare da Eraclio di Pilo. Lo sapevate? I discendenti di Eraclio di Pilo stanno ancora lì a cronometrare! Incredibile antichità subacquea! Su Re-Educational Channel! Subacquei! Uno o più subacquei! Il cavallo di Troia! La mitica trappola di Ulisse che regalarono a Troia era piena di soldati che poi hanno devastato completamente la città. Però comunque gli hanno regalato. Dopo che hanno reso il suolo, che hanno fatto? Se lo sono ripreso o comunque... cosa regalata, cosa incatenata su Re-Educational Channel, o hanno raso il suolo pure per quello. Non ha senso che ti regalo una cosa e poi la radono al suolo, non ha completamente senso, a meno che non ce l'hai già una, regalata, è un doppione, ma non era così su Re-Educational Channel. Lo sapevate? La nitroglicerina, oltre a essere un pericolosissimo esplosivo, è anche un potentissimo afrodisiaco, ma è consigliabile solo alle persone che possono raggiungere l'orgasmo molto velocemente. Una botta e via su Re-Educational Channel. Ho scritto così. Una botta e via. Come avevi fatto tu? Lo scherzo, poi passo io per volgarità. Tutta la redazione deve passare per volgarità, eh? No, che poi è una cosa naturale. Cavalieri, sono stati i protagonisti del Medioevo. Si scontravano a cavallo protetti da pesanti armature. Ma perché lo facevano? Che li spingeva a farlo? Ma che c'era uno dietro che li spingeva? Scopritelo su Re-Educational Channel. Spingitori di cavalieri su Re-Educational Channel. Com'era? Ricomponiamoci su Radio Onda Rossa. Sì, se stavamo appiegando. No, stavamo piegati, sì. Piegati. Scusate. L'uno e tre minuti. Siete sempre all'ascolto di quegli sciroccati di 25 o'clock. Sì, la trasmissione più scrausa che c'è, infatti sta in mezzo alla settimana proprio. Tipo un filo de muffa. Sì, sì, sì. Ecco, questo è il palinsesto del giovedì invece. Ore 8, come da palinsesto, proprio prime pagine della segna stampa. Alle 9.30 i relazionali della mattina, eccetera. Mattinata di Radio Onda Rossa dedicata agli aggiornamenti, sì, alle 13 di nuovo il giornale radio e a seguire lo spazio comunicazioni, poi la trasmissione sul cinema che è Visionari, la trasmissione della Carovana Valle, Attica Blues, La Schiena del Sol, Profondo Rosa. Ci sarà Profondo Rosa domani? Io sono positivo. Io penso di sì, mi metto all'ascolto. Sicuramente hanno riniziato, quindi non... hanno riniziato, c'è. Va bene. Quindi 18.30 Profondo Rosa, diciamo. Però la dobbiamo superare questa cosa. No, non gli è servizio. Va bene, dai. Ci incagliamo sempre su Profondo Rosa. Va bene. Giornale radio e spazio comunicazioni a seguire. Allegro con fuoco che ritorna. Attenzione, lo possiamo dire ufficialmente, ritorna, ci ho parlato, viene di nuovo a mettere dischi di musica classica qui in radio, nello spazio bene. Che va dalle 20:15 alle 21, quando inizia la replica di Noctibus Panis. Un saluto ovviamente a Fagiolino, a cui anche a lui abbiamo dato la sola stasera, vabbè, questo è. Però appunto ci ripromettevamo con Lilli di provarci e a quanto prima, insomma, questo live set qui lo faremo. Non ci arrendiamo. In Noctibus Panis, dicevo, a seguire Apostasia e a chiudere Apostasia, che va avanti dalle 22 fino a 7:30, insomma, forse diciamo che ci precedono di qualche minuto. Mi chiedi un disco oppure fai un altro tipo di gesto? Noi chiudiamo così la 25esima ora. Il saluto più importante va, come al solito, a tutti e a tutti coloro costretti a condizioni di limitata libertà personale, il carcere, la gravidanza, gli arresti domiciliari, la clandestinità, a tutti e tutte le recluse dei terribili CIE che debbono essere chiusi prima ancora di tutto. E vabbè, ci risentiamo a mercoledì prossimo. Credo che non abbiamo niente in serbo, mi sembra tra due mercoledì. Sì. Ok, non anticipiamo nulla per ora. Ma sì, razza a parte, il 14 novembre. Ok, 14, se no, forse. Sì, 12. Sì, vabbè, sì. La prossima saremo più precisi, dai. Forse. E bella, a mercoledì prossimo. Bella. Noi ci salutiamo sempre così, sotto la luna comunista. dreams. I'll share.